Pane, burro e rock and roll, sono le 7:30 primi. Problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Le regole sono molto semplici, le regole del gioco. Io parlo, Spadino schiaccia i tasti, Roberto Fricantoni dice stupidate, e un po' anche voi via sms, via mail, e tentiamo di non svenire sul mixer prima delle 9 del mattino. Allora, saluto Sebastian facendo notare come per l'ennesima volta quanto la tematica Natale è vissuta con un po' di timore da parte della nostra redazione. Per quanto riguarda Halloween è stata molto più semplice la cosa di prendere una posizione secca e decisa. Per Natale passi di bimbo, ragazzi, perché c'è gente che la prende male. Ci scrive: vorrei regalarvi il mio CD preferito di canzoni natalizie. Cantano i Pantaloni Morti. Posso venire alle 7 domani? Mi fate entrare? Guarda, Sebastian, sai benissimo che chiunque si presenti all'ascensore di Rock FM con un carnet di pasta in mano è sempre ben accolto. Quindi, se poi arrivi pure con i Pantaloni Morti che fanno le canzoni natalizie, non vediamo veramente l'ora. Ma esistono secondo voi i Pantaloni Morti che fanno canzoni di Natale? Secondo me ci sta pigliando per il culo. Ma fa niente, anche se si sta prendendo gioco di noi, a noi va bene lo stesso. Take your time. prosegue questo duro lunedì. Per fortuna la nostra redazione, capitanata da Isaac Rizzi e da Roberto Fricantoni, hanno spiluccato i compleanni di quest'oggi. È vero, vero. Pertanto siamo in grado di dirvi che nel 1942, il 19 novembre, nacque Calvin Klein. Sì, mitico stilista. Si ricorda qualcosa? Sì, certo. Buongiorno, Mike. Buongiorno. Ogni tanto mi esce il Mike, prorompente Mike. L'avevamo notato. Calvin Klein. Ma sì, ma quello che si vede in tutti i negozi di Milano. Sì, esatto. Quello che fa i profumi. Anche, sì. Quello che fa le borsette. Anche, sì. Queste cose che vendono i negretti per strada. Sì, esatto. Questi negretti. Va bene, non c'entra. Che non fanno lo scontrino. Non rilasciano non scontrino. Entriamo in polemica, puzzicchiano. No, maestro, per favore, di colore hanno una traspi-sussudurazione diversa dalla nostra, sperando di ritrovare Roberto Fricantoni con il compleanno di Gloria Guida, attrice italiana che nasceva nel 55. Ci ricorda qualche film? Volentieri. Grandissima attrice Gloria, conosco tipo La liceale, Seduce i professori, giusto, perfetto. La liceale, Il diavolo e l'acqua santa. Sì, esatto. L'infermiera di notte. Sì. E la liceale le viene particolarmente bene. Ecco, la liceale nella classe dei ripetenti. Sono molto contento, è la prima volta che Mike Buongiorno Fricantoni dice i titoli dei film giusti. Ho la collezione completa, bene, me guida. La sono, come dite voi giovani, fucilata. No, ma cosa vuol dire? Sparata, me la sono sparata, come tutta. Dite voi giovani, sparata tutta. Non oso immaginare. Una bellissima raccolta. Sì, va bene. Proseguiamo con un altro compleanno. Nel 61 nasceva Meg Ryan, attrice statunitense, e nel 62 Jodie Foster. Qualche film della Foster? Non posso. Scusi, sono posseduto dal Mike. Sì? Non posso non citare almeno due. Taxi Driver. Perfetto. E aspetti. Quello dove c'è l'omicidio. Ci sono. C'è Hannibal the Cannibal. È partito il tempo. Sì, ma è lei che deve rispondere, non io. Quale il silenzio? Sceglie, già c'è. Il silenzio degli. Il silenzio dei... degli agnelli. No, il quasi. Silenzio degli innocenti. Degli innocenti. Però c'era bene. Vicino, perché il titolo originale è The Silence of the Lamb. Quindi il silenzio degli agnelli. Bravo. Sono ben preparato. Bravo. Complimenti, maestro. Grazie. Complimenti anche lei. E viva il lunedì! Sempre. Viva il nati il 19 novembre! Ottimo. Viva il 19. Basta, allegria, maestro, grazie. Allegria. Arrivederci. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go. in un'orgia di acidi, di archi e di sabbia nelle scarpe, i Beach Boys di God Only Knows. Oggi mi vengono così le immagini, eh? Ho segnalato prima che c'erano degli omini che con una piccola gru stavano andando al lampione dall'altra parte della strada. Scusate, questo è racconto di quello che accade dalla finestra di Rock FM, che per noi è importante. Ragazzi, sembra che stiano tirando su delle luminarie natalizie, è ufficiale. Non stavano toccando il lampione, questo sta montando una roba gigante, ma non riesco in diretta ancora a dirvi esattamente di cosa si tratta. Tenterò di aggiornarvi nel corso della puntata. È una delle rubriche che sta prendendo corpo giorno dopo giorno in questi primi, questi primi appuntamenti di novembre. Sono le segnalazioni delle luminarie natalizie che lente lente iniziano a prendere possesso della città. Eravamo preoccupati fino a settimana scorsa, dicevamo forse un po' più lentamente del solito, e chiederò aiuto al nostro tassista Tino in giro per Milano. Sembra che questo weekend insomma ti hanno dato un giro di vite, eh? Abbiamo invece a Firenze Sab, la nostra pulmista, che anche lei ci tiene aggiornati quanto riguarda le luminarie natalizie. Beh, questo 19 novembre potremmo occuparci di luminarie di Natale, perché no? Così andiamo su un pezzo classico del repertorio, così lo facciamo un po' manieristico, e io, anche se mi sto per addormentare, dovrei riuscire a farlo lo stesso, no? Intanto saluto e ringrazio Wiz per la sua testimonianza, segnalazione che giro a tutti voi là fuori. Non vi ho ascoltato per un giorno e ho bucato la bicicletta, la ruota della bicicletta, a 8 km da casa. Si è scaricata la batteria della macchina alle 2 dalla parte opposta della città. È qualcosa che non ricordo e che ho rimosso. Buon lavoro, ciao Wiz, e grazie per la testimonianza, è ufficiale. Chi non ascolta pane, burro e rock and roll ci viene la giornata sfigata, quindi complimenti a voi che siete sintonizzati, state, come si dice in termine tecnico, in una bella botte di ferro, eh? Anche perché abbiamo i Talking Head con Psycho Killer. Ehi, che scosse. Tra pochi istanti, solo per voi della prima ora, i Led Zeppelin col Kazoo, e la stima nei nostri confronti scende. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Talking Heads, Psycho Killer. Oh, sempre puntigliosini là fuori, mannaggia. Via SMS controbatte un radio, un altro radioascoltatore, sì. E commenta così: minchia, ma a me che l'ascolto quasi 24 ore non è che trovo sul portafogli anelli, collane, neanche un numero del lotto è uscito. Allora, amico, ha detto che chi non ascolta pane, burro e rock and roll è un po' sfigato, non che chi ascolta pane, burro e rock and roll è più fortunato. È una questione di lettura delle cose, ma grazie comunque della tua preziosa testimonianza. Mi appello a voi, cari radioascoltatori frazionati, sì, così vi chiamano, amici del mattino, voi che ci ascoltate mentre vi allacciate la cravatta, voi che ci ascoltate nel tragitto casa-asilo coi bimbi a scuola. E avete tra l'altro questo cattivo gusto di far ascoltare questa trasmissione radiofonica ai vostri bambini, che ragazzi, parliamone. È vero che forse c'è di peggio in giro, però anche questo bene bene non gli fa. Ma un abbraccio anche a voi e pure alle vostre creature. Insomma, voi che non riuscite ad ascoltare tutte le due ore di pane, burro e rock and roll, è un po' rosicate. Perché voi della prima ora... lo so come siete fatti, vi sentite un po' i figli della serva, dite, quelli lì di Rock FM del mattino fanno le cose fighe solo nella seconda ora e noi ce le perdiamo. E invece no, perché il nostro regista Spadino registra tutto e poi ha il cattivo gusto di riproporvelo. Sto per farvi ascoltare quello che è accaduto venerdì nella seconda ora di diretta, quando abbiamo immaginato. Abbiamo volato con la fantasia e abbiamo immaginato i Led Zeppelin, il re del rock and roll, completamente spiantati, sì, senza più un centesimo, con gli strumenti, i loro amati strumenti requisiti, completamente al verde, cioè neanche la chitarra c'hanno più, hai capito? Gli Zeppelin, sì, proprio i Led Zeppelin, senza batteria, senza basso. Come avrebbero potuto comportarsi se veramente si fossero trovati in una condizione di questo tipo? Beh, avrebbero potuto suonare con il kazoo. Buon ascolto, questa è Hula Lotta Love, sono i Led Zeppelin col kazoo. Moment for the band. Huh? We haven't got instruments to play. But we've got the passion. Clowns have all gone to bed. You can

diretta, la colazione di Rock FM. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, puntata 132. Sempre una buona giornata dall'Ariele, la squadra composta da Spadino, Fricantoni e la nostra redazione. Un abbraccio a voi là fuori, pronti a affrontare questo lunedì lavorativo con le lamette al collo. Sex Pistols, Anarchy in the UK. Qualche secondo alle 8, quando inizieremo la seconda ora di diretta. Essendo lunedì, un nuovo film ci terrà compagnia e lo scopriremo tra pochi minuti. Volevo solo ringraziarvi perché è molto tenero il fatto che quando mandiamo in onda rubriche tipo quella dei Led Zeppelin col Kazoo, ed era la stessa cosa che succedeva mandando in onda i Beatles in italiano, in molti di voi si sentono in dovere di commentare e fa piacere, soprattutto gli insulti fanno abbastanza piacere. Via sms al 3351007777. La cosa preoccupante è che a molti piace e questo, insomma, non siete messi benissimo. Probabilmente siamo sulla stessa barca. Uno dei più carini è questo, di un amico che non aveva fatto in tempo a sentire tutto l'intervento settimana scorsa e quindi commentava: ah, questa del Kazoo l'avevo sentita solo alla fine, sembrava un orgasmo in manicomio. Belin, è molto peggio di quanto immaginassi. Vedi, però almeno adesso l'ha sentita tutta, quindi Spadino, forse hai ragione, fai bene a far risentire le rubriche anche agli amici della prima ora. Chiudiamola in bellezza con i nostri opinionisti, dopo Frigo, Toporogna. Ehi Rugna, come va? Lascia perdere Fringo. Ma non dovevi uscire con la topolina della 24? Sì, appunto. È andata male? Beh. Tu le hai detto che stanno sperimentando quella nuova bibita gasata su di te e che sai parlare con i rutti per un quarto d'ora, vero? No. Ma le hai recitato quella poesia d'amore che ti avevo dato? Sì. E allora? Era un piano infallibile. Cosa non ha potuto funzionare? Vabbè, Frigo, se proprio te lo devo dire, non ho resistito. Sai la poesia, beh, gliel'ho recitata con i rutti. Pensavo apprezzasse. Berigiare palli la sorda.